Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Io adesso vado a Firenze, Chiara, e tu? Io vado a Bologna, poi ci ritroviamo qui con dei ragazzi di Pavia? Esatto. A dopo. Però prima i titoli. A Firenze, tre giorni di dibattito e seminari per avvicinare le giovani donne alla ricerca scientifica e alle attività tecnologiche. Matematica e impresa. Un rapporto difficile ma fondamentale. Sportello Matematico è un progetto che facilita la sinergia. Cinque ragazzi sul Ticino, un fiume che amano e di cui raccontano problemi e prospettive. Hanno partecipato a un concorso della Regione Lombardia e anche Mebius li ha premiati. Troppe stampanti 3D e i makers ne discutono. Tutto ciò vi risulterà oscuro, ma seguiteci in trasmissione e vi spiegheremo di che cosa si tratta. Si è appena conclusa a Firenze la scorsa settimana un appuntamento che ha il seguente titolo: La nuvola rosa, donne, scienza e tecnologia, nuove opportunità per le ragazze. E qui le ragazze però sono anche tutte le donne in genere, no? Roberta Cocco, buonasera Roberta Cocco. Buonasera. Direttore responsabilità sociale e progetti a sviluppo nazionale di Microsoft Italia. Microsoft è un po' stata al centro, diciamo, della sponsorizzazione, promozione proprio di questo appuntamento, che ha cercato, e adesso lo vedremo con altri ospiti, di entrare nel merito e anche in profondità di alcuni aspetti specifici di questo gap, insomma, che esiste per quanto riguarda la partecipazione delle donne alle attività e alla ricerca di tipo tecnologico. Però a lei chiedo, Roberta Cocco, com'è la situazione? Evidentemente si dovrebbe fare di più, perché quello che avviene non vi soddisfa. Certo, quello che dice lei è vero, perché purtroppo dai dati che sono emersi dalla nostra ricerca che abbiamo dibattuto al nostro convegno, sono ancora molto poche le ragazze che seguono percorsi tecnico-scientifici e che magari, pur avendo fatto altri percorsi di studi, perlomeno valutano di completare la loro formazione con ambiti tecnologici che vanno dal social al digital, eccetera. Questo è un problema, perché in un mondo che si sta digitalizzando è molto importante che le giovani ragazze comprendano quanto avere delle competenze tecnologiche offrirebbe loro un'arma in più, un modo certo. In più per essere appetibili per il mondo del lavoro sempre in evoluzione e anche per avere la giusta ambizione di una carriera. E quindi questo convegno ha cercato di dare strumenti per far capire, appunto, sia molti aspetti suggestivi interessanti di questa area, grande area culturale, ma anche per come entrarci, insomma, stimolare un processo, appunto, di partecipazione. Assolutamente, perché è molto importante che tutti gli attori coinvolti nella formazione dei giovani, che si parli di le famiglie all'inizio, la scuola, le istituzioni, si impegnino in un progetto comune di evoluzione della formazione e anche riuscire a comunicare quanto queste tematiche, ancora purtroppo poco dibattute, non sono a favore delle donne o delle ragazze, ma sono a favore del paese, dello sviluppo economico del nostro paese. Roberta Cocco, grazie, e adesso noi entriamo in alcuni temi, un paio di temi, perché ne avete davvero trattati tanti, e vediamo di aggiungere contenuti, appunto, a quello che abbiamo detto. Grazie Roberta Cocco. Grazie molte. Vi dicevo poco fa che ci sono stati diversi workshop. Il titolo di uno di questi è particolarmente strano, buffo, accattivante: Tecnologia è un gioco da ragazzi. Buonasera Emanuela Lavezzari. Buonasera. Lei è marketing manager di Asus e ha tenuto questo workshop. Allora ci spieghi il titolo. Appunto, ho tenuto un workshop oggi, Tecnologia un gioco da ragazzi, proprio perché riteniamo che la tecnologia oggi non sia più solo ad appannaggio di un target maschile, quindi di soli uomini, ma possa essere uno strumento per far sì che le donne, quindi tutto l'universo femminile, possa accedere al mondo del lavoro appunto attraverso la tecnologia. Quindi lei sottolinea nel titolo che è un gioco da ragazze perché ritiene che ci sia stato un processo di semplificazione, quindi non è più una roba da smanettone tipico. Oggi anche attraverso l'utilizzo di social network dicono che le donne sono più socialmente attive su internet, che aprono più blog, che fanno più acquisti online, magari legati a non necessariamente al mondo del lavoro, ma a propri interessi, a viaggi, a prodotti che sono per la casa o abbigliamento. Quindi l'uso della tecnologia è comunque molto più semplice e le stesse donne sono anche molto più attive. Lei ha tenuto il seminario, quindi aveva di fronte a sé parecchie donne con le quali avete parlato appunto di questo tipo di problemi. Ha riscontrato qualche particolare aspetto difficile di un atteggiamento, di una mentalità che appunto deve cambiare? Sì, forse oggi c'è ancora un pregiudizio anche dalle stesse donne che determinate opportunità di carriera siano ancora prevalentemente solo maschili, e così anche i corsi di formazione e di istruzione, quando una ragazza si appresta a dover fare una scelta, si tende a prendere una strada piuttosto che scegliere quello che potrebbe magari essere la propria passione, ad esempio per la tecnologia. Cioè, quello che si registra è un atteggiamento che è tendenzialmente positivo rispetto al accedere a questo tipo di professione, però che scatta invece un timore diverso e che dice: mi vado a trovare in un ambiente troppo maschile e lì allora mi metto un po' in un angolo. È corretto. Manuela Lavezzari, grazie. Adesso sentirò un'altra sua collega per un altro seminario. Grazie. Vi presento Cristina Bombelli. Buonasera Bombelli. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Lei è presidente e fondatrice di Wise Growth, in inglese insomma crescita saggia, vuol dire insomma che vi interessate, perché lavorate sul sociale, di capacità di produrre, come dire, delle possibilità di sviluppo del singolo, del soggetto, no? Sì, lavoriamo un po' su tutti e due i fronti, insomma, saggezza organizzativa e saggezza individuale, possiamo dire. Lei al convegno ha allargato, diciamo, questa tematica a quel termine, nel vostro gergale si chiama empowerment, no? Ci dica un po' in generale di che si tratta. Sì, si tratta proprio, diciamo, di percorsi per dare maggior potere alle donne, partendo da un assunto che ci sono sicuramente fenomeni di esclusione culturale, ma ci sono anche tanti fenomeni di autoesclusione, come lei diceva prima. Autoesclusione legata alle tecnologie, ma nel nostro caso, nel nostro campo, un'autoesclusione più di natura ampia, quasi che le donne, ad esempio, le faccio subito un esempio, non abbiano la stessa capacità di autovalutare le proprie competenze degli uomini. A parità di bicchiere della vita, diciamo mezzo pieno e mezzo vuoto, ci sono molte ricerche che descrivono come i ragazzi, gli uomini, sono in grado di descrivere le proprie competenze e invece le donne pensano subito a quello che non sanno fare. Non solo descriverle verso l'esterno, c'è anche un'incapacità di descriverle a se stesse. Esatto, soprattutto a se stesse, e quindi poi quando c'è una chiamata per una posizione più alta o per un'opportunità, mentre una donna riflette a lungo su ce la farò o non ce la farò, un uomo ha già alzato la mano. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è stata la Borsa della Ricerca a Bologna, 2 giorni di incontri fra chi produce idee nella ricerca appunto e le aziende. Chiara Albicocco ha seguito questo appuntamento e vi racconta adesso di un particolare settore di applicazioni che potrà sembrare strano a molti, ma è quello che mette in relazione la matematica con le aziende. Sentiamo. Sportello Matematico è un progetto finanziato dal MIUR in collaborazione col CNR di Roma. Siamo qui con Mario Santoro, che è rappresentante dei matematici che fanno parte di questo sportello, che ha come scopo quello di applicare la matematica nell'azienda. Esattamente, il nostro nome completo è Sportello Matematico per l'Industria Italiana, e l'idea è proprio quella di essere uno sportello aperti, pronti a ricevere le industrie, le imprese e le aziende che hanno dei problemi e vedere se questi possono essere risolti e superati con l'uso di tecniche matematiche. Noi in realtà non facciamo noi quattro che lavoriamo allo sportello matematica, ma abbiamo alle nostre spalle molti partner che fanno matematica, ricerca matematica, noi siamo dei facilitatori, cerchiamo di rendere più liquido, più elastico il confine che c'è tra mondo della ricerca e mondo delle aziende. Mario, sarai tu a spiegarci, ovviamente, che nell'innovazione, nella tecnologia delle nostre aziende c'è tantissima matematica, però appunto il lavoro del facilitatore, in questo caso il tuo, ci può raccontare qualcosa in più su quelle che sono le applicazioni della matematica all'interno delle aziende? Quale, ad esempio, voi siete giovanissimi, siete nati da un annetto forse? Anche meno, a dicembre siamo nati. Ah, quindi avete qualche mese di vita, però avete già alle spalle qualche esperienza interessante. Sì, per continuare il paragone, siamo stati svezzati, abbiamo più di 6 mesi. Una delle esperienze, visto che siamo qui a Bologna, te la racconto subito, dei nostri partner, è quella col gruppo ERA, che si occupa della gestione dei rifiuti, credo in tutta l'Emilia Romagna. Sì, la multi-utility, multiservizi dell'Emilia Romagna. Loro avevano bisogno di rendere più efficienti i loro processi di raccolta rifiuti e conferimento in discarica nelle apposite aziende che poi riciclano. E la matematica, proprio su una mappa, può disegnare i percorsi, quindi da via dell'Indipendenza a tale piazza va questo camion con questa dimensione che raccoglie questo a tale giorno e a tale ora. Si chiama, in termini matematici, ottimizzare, cioè rendere più efficiente, secondo alcuni criteri. Ovviamente uno dei primi è quello economico, poi c'è anche il criterio di vivibilità. Ovviamente i rifiuti umidi si devono raccogliere poco dopo il conferimento fuori dalla porta, soprattutto d'estate. Quindi la matematica può fare questo, oramai con l'utilizzo dei computer, ma anche con l'utilizzo dei telefonini, oramai con delle app, si possono disegnare i percorsi e quindi si rende tutto più efficiente. Quindi attraverso dei modelli matematici, e mi viene in mente la teoria dei grafi, dimmi se sbaglio, è possibile creare delle mappe in cui appunto vengono identificati dei percorsi, in cui ad esempio il camion della spazzatura fa meno strada oppure fa la strada che non intasa al centro in una determinata ora. In questo modo ovviamente il servizio è migliore, ovviamente l'azienda risparmia, però c'è un vantaggio anche per il cittadino e per l'ambiente. Quindi diciamo che con l'investimento dell'azienda di poco capitale iniziale, perché di fatto sarebbe l'utilizzo di un computer e quello che è il lavoro chiaramente del matematico, dei matematici che ci lavorano sopra, però il costo mi sembra abbastanza irrisorio, ma invece il vantaggio economico e non solo è grosso. È proprio così, infatti in tutti i report internazionali si sottolinea come oramai la matematica applicata sia un elemento di innovazione fondamentale, perché ha un alto grado di astrazione, quindi consente di affrontare tanti problemi, è molto elastica, costa poco e comunque riesce, anche quando proprio non trova la soluzione, a dare delle indicazioni. Quello che vogliamo fare in Italia è quello che si fa negli altri paesi, cioè un network che funziona, che va a regime. Non solo magari delle esperienze anche molto interessanti che ci sono in Italia, ma isolate. A qualcuno sembrerà strano, ma la matematica è molto importante, il modello matematico è importante anche in altri ambiti. Adesso abbiamo raccontato quello dell'esperienza di ERA, ma qualcosa sui nanofarmaci a rilascio graduale, ad esempio, ci raccontavi fuori onda che possono essere utilizzati delle forme matematiche, dei modelli matematici, per cui appunto anche qui il processo è in qualche modo ottimizzato. Sì, oramai con l'uso di normali computer la matematica può scrivere dei modelli che aiutano a capire proprio come disegnare un farmaco a seconda delle esigenze di categorie di pazienti e come controllare anche all'interno del corpo il rilascio di farmaco. Mi vengono in mente gli stent in cui si può un po' manipolare il rilascio di farmaco. Per i diabetici. Sì, oppure mi vengono in mente lenti a contatto per pazienti con glaucoma, che rilasciano gradualmente il farmaco e quindi il farmaco è più efficiente, funziona meglio e si possono anche ridurre i danni collaterali. Dimmi se sbaglio, ma il modello matematico, diciamo che sul computer costa poco farlo, tra virgolette, quindi c'è la possibilità anche di sbagliare in qualche modo, perché comunque il costo è irrisorio. Invece nella pratica immagino che sbagliare sia molto più costoso. Sì, si parla di esperimenti in silico, nel senso uno fa l'esperimento prima al computer per vedere se è fattibile, poi si parla ad esempio di esperimento in vitro o in lab. E poi si passa alla fase proprio di industrializzazione. Questo fa risparmiare molto, perché diciamo giocare tra virgolette mezz'ora con delle forme al computer è un po' di elettricità e mezz'ora, invece farlo in laboratorio costa il laboratorio, costano gli strumenti, costa il materiale e soprattutto il modello in silico permette di avere anche delle idee un po' più strambe. E questo può essere un fattore enorme di innovazione, perché uno può provare anche cose che sembrano strane, ma non funzionano, e vedere se effettivamente potrebbero funzionare. E questa è una spinta enorme all'innovazione. In fatto di tempi, delle volte si possono risparmiare anche mesi. C'è un'azienda che con i prototipi virtuali è passata da 6 mesi di sperimentazione a 1 mese. Quindi i vantaggi mi sembrano del tutto evidenti. Niente, Mario, che dirti, in bocca al lupo per il progetto. Siete appena nati, avete già in mente qualche applicazione nuova su cui state lavorando adesso? Ti posso dire che c'è molto interesse per le applicazioni biomedicali. Credo che a breve ci sarà un salto nella medicina e nella diagnostica, che forse neanche ci aspettiamo, e in questo la matematica oramai gioca un ruolo fondamentale, anche nell'ottica di quasi personalizzare le terapie. Io sono stato a dicembre in Francia, dove i nostri analoghi lavorano già con dottorandi e dottorati all'interno dell'industria, e poi il matematico sta nell'industria, quando ha dei problemi richiama il dipartimento da cui viene, semplicemente. Grazie Mario, sportello matematico, in bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie, crepa il lupo, e chi vuole può trovarci sul nostro sito, che è sportellomatematico.it. 10 giorni a Torino dedicati alle Smart City, e in particolare certo anche a Torino, come una città che progetta parecchie cose nell'area delle Smart City, ma in generale insomma allo Smart Citismo, a fare le nostre città più intelligenti. Ne parlo con Gaetano Capizzi. Buonasera Capizzi. Buonasera a lei, agli ascoltatori. Lei è in particolare direttore del Festival Cinema Ambiente, che si tiene durante questi 5 giorni, però insomma ha anche l'incarico di curare un po' tutto questo grande happening, questa grande performance che sta partendo adesso a Torino e durerà fino a quando? Fino al 9 giugno, le ultime iniziative sono domenica 9 giugno. Allora, ce ne sono davvero tante, non possiamo assolutamente parlare di tutte. C'è un sito forse dove possiamo trovare tutto? Sì, certo, c'è il sito www.torinosmartcity.it e lì c'è tutto il programma delle 50 manifestazioni che compongono Smart City Days. Ecco, di quali possiamo segnalare per chi abbia un interesse a diversi aspetti, insomma, di questa sì, progettazione molto articolata che sta iniziando in questi anni? Sì, noi iniziamo il 24 maggio, poi tutte le domeniche, per 3 domeniche ci saranno degli eventi, diciamo, popolari, molto, speriamo, attrattivi. E domenica 26 inviterei chi vuol venire a Torino. C'è l'ennesima, la quarta edizione del Bike Pride, che occuperà la città. L'anno scorso erano 15.000 ciclisti. 15.000 ciclisti. Poi? E poi la domenica successiva, è il 2 giugno, ci sarà un grande pranzo gratuito contro gli sprechi alimentari, per far riflettere i cittadini tutti sul grandissimo problema dello spreco alimentare. Noi abbiamo aderito a un appello dell'ONU, che questo è l'anno internazionale contro lo spreco alimentare. Saremo in Piazza Vittorio, saranno serviti 3.000 pasti per persone in modo gratuito, con alimenti che sono raccolti nei giorni precedenti, frutta e verdura che sarebbero poi magari state buttate via, ma noi le intercettiamo prima, le mettiamo in frigorifero e poi le cuciniamo il giorno, la domenica, per cui si può venire a pranzare gratis con la famiglia, con gli amici. Occhio, diciamo subito che non è roba che andate a recuperare in spazzatura. Il problema è che tutto il sistema di distribuzione delle merci, anche nei grandi supermercati, butta via roba fresca che ovviamente invece dovrebbe finire sulle nostre tavole. Ma ci saranno anche degli appuntamenti di dibattito, di riflessione su tematiche? Tutta la manifestazione è strutturata in questo modo, con le domeniche, con dei grandi eventi popolari, e durante i giorni feriali invece delle occasioni di riflessione, di dibattito. Ad esempio sarà presentato il cosiddetto piano TOC, Torino città da coltivare, no? Appunto, è un piano che disegna la città, appunto, come non solamente come fonte di consumo alimentare e di verde, ma anche come sorgente di cibo, di alimenti. C'è stata una nuova mappatura degli orti urbani. Poi c'è il Festival Cinema Ambiente che accompagna un po' Poi c'è il Festival Cinambiente che dal 31 maggio al 5 giugno è il festival che dirigo io, tra gli appuntamenti a livello internazionale più attesi per quanto riguarda il cinema ambientale. Avremo tantissimi film in anteprima italiana o addirittura mondiale. Grandi personaggi che verranno a Cinema Ambiente, ospiti ad esempio come ad esempio Bill Pullman, che è un attore hollywoodiano che ha interpretato Independence Day, Sballe Spaziali eccetera, che è un amante della frutta e della biodiversità, viene a presentare un film che si chiama The Fruit Hunters, che aprirà il festival. Cacciatori di frutti. Cacciatori di frutti, sì, perché c'è tutto un mondo di amanti della frutta. Noi abbiamo in Italia la più grande detective della frutta, che si chiama Isabella della Ragione. Lei analizza i quadri del 600, del 500, studia il tipo di pera che è stata ritratta e va a fare delle ricerche. È vero, adesso che lo dici mi viene in mente. Gaetano Capizzi, grazie, e ricordiamo ancora, parte praticamente in questo weekend e dura fino al 9 giugno questo lungo appuntamento con 50 eventi diversi Torino Smart City. Grazie e buon lavoro. Prego, arrivederci, grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Abbiamo qui in studio Silvia, Davide, Sofia, Cristian e Romina. E tu, Chiara, il tartarugone l'hai visto? Sì, l'ho visto, mi è capitato di andare in gita a Pavia e l'ho visto in effetti. E ne parleremo. È un bel tartarugone grosso. Dopo di questo affascinante oggetto. Allora, sono i ragazzi, sono gli alunni della quinta LB, L sta per liceo. Ciao intanto, buonasera. Ciao. Della scuola ITCT Antonio Bordoni di Pavia. E loro hanno vinto un nostro premio. Il premio Mebius, all'interno di una manifestazione molto più ampia. Allora, spieghiamo. È una manifestazione indetta dalla Regione Lombardia all'interno del programma operativo regionale POR. Questo vuol dire appunto programma operativo regionale. È un programma finanziato dall'Unione Europea ed ha come scopo quello di avvicinare i giovani a quella che è l'attività di finanziamento, insomma di sviluppo, con investimenti che le politiche comunitarie fanno nei vari paesi d'Europa. E questo concorso era concorso alla scoperta del POR Lombardia, quindi un concorso diciamo su se stesso. E loro hanno vinto il premio che noi abbiamo. Sì, in realtà hanno partecipato tante scuole, sì. Mi sembra che in finale ne siano andate 12 e noi tra queste 12 ne abbiamo selezionata quella che ci sembrava la più carina, la più interessante anche dal punto di vista scientifico, e quindi abbiamo attribuito il premio a questi ragazzi che sono venuti qui a trovarci e che appunto stasera ci racconteranno questo progetto che noi abbiamo premiato. Poi in una delle puntate successive arriveranno invece quelli che hanno vinto il premio assoluto e che adesso credo sia come premio andavano a Bruxelles, quindi alla sede europea, e ci racconteranno anche di quella. Beh, vuoi loro mettere esperienza. Sono venuti in radio, siete stati più fortunati. Allora, andiamo a raccontare questo progetto. Prima parlavamo di questo tartarugone, in realtà è un idroscalo, adesso ci facciamo raccontare che cosa significa, perché il loro progetto si chiama Un nuovo Ticino e la riscoperta della tradizione. Partiamo con Silvia che ci racconta un po' l'introduzione al progetto. Sì, noi abbiamo scelto questo titolo al nostro progetto, Un nuovo Ticino e la riscoperta della tradizione, per coordinare le attività tradizionali del passato, quali la pesca, la navigazione lungo il corso d'acqua o anche sport vari, in modo tale da coordinare con la modernità. Riteniamo fondamentale riqualificare l'area dell'idroscalo per la moltitudine di attività che il nostro fiume azzurro offre. Noi siamo molto affezionati al Ticino in quanto è un simbolo della nostra città, il cosiddetto fiume azzurro, ma che oggi di azzurro non ha più niente, ha molto poco. Noi siamo soliti durante la domenica fare dei picnic, immersi nella natura, nel prato, piuttosto che fare sport canoa, gite in bicicletta o passeggiate a piedi immersi nella meravigliosa natura e anche comunque in sicurezza. Noi riteniamo che il nostro progetto valorizzi le risorse ambientali, paesaggistiche e artistiche, e proponiamo proprio questa trasformazione dell'idroscalo in un ristorante, in modo tale da riscoprire le meraviglie del fiume azzurro e anche alla quale fa da cornice la possibilità di degustare ottime specialità enogastronomiche. Ecco, bene. Perché io vorrei, poi tu l'hai visto, ma è una delle cose che ci ha innamorato di più vedendo questo loro video, che poi dopo andando al nostro sito si potrà sapere. Sì, dov'è, metteremo delle foto e il link al loro progetto. Allora, certo. Improvvisamente in un punto del fiume c'è questo edificio che ha 7-8 zampe. Abbastanza che... in centro, di fronte a Borgo Ticino, quindi abbastanza in centro. Che però è una tartarugone immensa, completamente vuota. Sì, è un grosso abbandonata. Edificio rettangolare su palafitte. Magari Davide adesso ci puoi raccontare tu come è fatto e a che cosa serviva. Sì, l'idroscalo nacque come punto di rifornimento per gli idrovolanti della linea Torino-Venezia-Trieste. Anni 30, anni sì, 20. E venne inaugurato appunto il 1 aprile 1926 da Benito Mussolini e divenne subito una struttura indipendente per lo smistamento delle merci e anche della posta per l'area di Milano. Fu costruito per conto della società italiana Servizi Aerei di Trieste e rappresenta una delle strutture più importanti, anche perché fu progettato da Giuseppe Pagano e rappresenta uno dei primi esempi di strutture di architettura razionalista a Pavia. È anche abbastanza grosso, quanto è grande, più o meno sì. Di superficie? Ad occhio e croce io direi che non è meno di un 150 metri quadri. E anche di più. Forse anche di più, sì. Forse anche di più. Ed è una struttura anche molto alta. Dopodiché, finito quell'utilizzo, questo è rimasto vuoto per 60 anni, 70. Sì. Per molti anni. Un vero spreco. Sì. Infatti ha un aspetto abbastanza fatiscente, so, se si vede sì, che è abbandonato molto, da molti anni. Perché comunque infatti. Sono 87 anni da quando è stato costruito e ha resistito a numerosissime piene, le più recenti dagli anni 90 e quella del 2000. E in occasione di quest'ultima l'acqua ha raggiunto i 6 metri di altezza, però i piloni alti 7 metri hanno protetto la struttura. Questo che è infatti molto strano. È impressionante perché è veramente in centro. E allora veniamo al vostro progetto. Sofia, come pensate allora, come vorreste trasformarlo? Che cosa avete proposto? Allora, adesso la struttura è completamente abbandonata, come abbiamo appena detto, e noi abbiamo pensato di costruire al suo interno un ristorante con i prodotti tipici pavesi, dunque a base di trota specialmente. La struttura è, come abbiamo già detto, molto ampia dentro. Sono presenti due piani e le pareti sono ricoperte di affreschi meravigliosi. Ah, quindi all'interno è anche prezioso, bello. Sì, sì, assolutamente. È una struttura fantastica che al di fuori si può ancora vedere perché ci sono le pareti che sono distrutte, non ci sono più i vetri. E questo ristorante sarebbe molto carino perché è affacciato sul Ticino e specialmente sul Ponte Coperto, che è un simbolo della città di Pavia. Davvero, sì. Abbiamo anche pensato di all'interno, o comunque anche sotto di instaurare un noleggio barche. Certo. Per finanziare appunto anche la navigazione. Per andare lungo il fiume. Ecco, perché ora veniamo a Christian che ci racconta che in effetti il Ticino è navigabile. Il Ticino sì, è navigabile, lo è stato fino all'Ottocento ed è appunto uno scopo del nostro progetto riproporre la navigabilità di questo fiume attraverso delle postazioni in barcadero con cui si potrebbero trascorrere gite domenicali festive. Questi imbarcadere saranno aperti tutti i giorni festivi. Ecco, ma ti chiedo scusa, fino all'Ottocento era largamente navigabile? Era largamente navigabile. Poi dopo è intervenuto qualcosa nel letto del fiume? Penso che l'industrializzazione abbia portato agli scarichi delle industrie, abbiano contaminato le acque. Ah beh, certo, la contaminazione ok, però la navigabilità c'è. La navigabilità non è presente in tutti i tratti, poiché reduce dalla seconda guerra mondiale, dal bombardamento, è crollato il ponte precedente che e i resti sono rimasti. La profondità è minore. Tutti i lavori di ripristino che si potrebbero fare tranquillamente. Sì, assolutamente. E noi abbiamo premiato questo progetto perché c'era anche uno sfondo di scienza, insomma di ricerca scientifica, di cui ci parla Romina, perché c'è stato anche tutto uno studio sulla qualità appunto delle acque di questo fiume. Ci sono molti problemi. Certo, le acque dei fiumi sono molto inquinate, soprattutto da metalli pesanti, ad esempio il piombo e il rame. Questi materiali potrebbero essere tolti attraverso le bucce di banana. Ecco, le bucce di banana, abbiamo capito bene? Ce l'ha sì, detto le bucce anche di, prima, di banana. Infatti Milena Boniolo, che è una ricercatrice dell'American Chemical Society del Brasile, ha scoperto che se prendiamo le bucce di banana le essichiamo e le tritiamo, una volta messe in acqua, queste potrebbero catturare tutti i metalli pesanti. Il vantaggio di questo... Una specie di filtro naturale. Esatto, il vantaggio è proprio questo, che è naturale, non vengono aggiunti dei solventi che a loro volta inquinerebbero il fiume, costa molto poco, fino a 20 volte meno gli attuali mezzi di depurazione, e il vantaggio è che questo composto può essere utilizzato 11 volte, quindi... Decisamente vantaggioso sul piano economico. Esatto, in 40 minuti si riesce a depurare fino al 65% delle acque e bastano 5 mg per pulire 100 ml di acqua inquinata. E questo metodo è già stato utilizzato in Brasile, quindi funziona. E la cosa sorprendente di tutto ciò è che noi ogni tanto ne parliamo, no, chiari in onda, è che le bucce di banana noi le buttiamo via, mentre invece con un'attività di questo genere diventano preziosissime. Evitare lo smaltimento e appunto essere riutilizzate più volte anche. Beh, come... Poi vuoi mettere, andare in giro e dire abbiamo purificato un fiume con le bucce di banana, e già di per sé sarebbe una notizia, una bellissima spettacolare pubblicità. E poi lì ovviamente, avendo una qualità alta delle acque, tutto quello che ci raccontava prima Cristian, la navigabilità e tutta la parte turistica ovviamente ne ha, andrebbe a guadagnare sicuramente. Sì, perché nel Ticino si potrebbe benissimo fare il bagno, no? Ci sono molti punti di spiaggia anche, no? E delle soprattutto anse. Ritornerebbero i pesci, che ora non ci sono più, o comunque ce ne sono pochi, molto, sì. molto pochi. Sì, sì, sì. E solo che io volevo sapere, ma questo progetto l'avete proposto al sindaco? Qualcuno vi ha dato... qualche mi sta ascoltando, feedback partito. Positivo, si può fare qualcosa, insomma, lanciamo un appello qui. Beh, diciamo che il progetto era già affidato ad un privato, poi è stato affidato anche all'università, ma non aveva molto interesse perché c'erano molte procedure molto complicate, la molto burocrazia costoso. Bisognava anche modificare la destinazione dell'idroscalo e quindi portarlo appunto a questa alla destinazione turistica, che non lo è mai stato. E quindi è molto difficile, come, cioè, bisogna essere particolarmente interessati e un privato magari non lo è. Magari... Invece magari un progetto che nasce dalle scuole, dai ragazzi delle scuole, potrebbe... Ragazzi, come si chiama il sindaco di Pavia? Alessandro Cattaneo. Signor Alessandro Cattaneo, insomma, faccia qualcosa per questo bellissimo progetto, e credo che tutti i pavesi non possano essere in nessun modo contrari. Beh, poi guardate che una notizia come quella, le bucce di banana che puliscono un fiume, fa il giro del mondo, eh? Quindi se uno vuol fare immagine alla città, non può perdere questa occasione. E poi comunque davvero questo edificio è in centro, quindi in quel posto lì sarebbe veramente come riqualificare una zona importantissima della città. Ok, è partita, dai, vi aspettiamo con i primi lavori. Sì, in bocca al lupo ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, ciao, buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vabbè, in Italia se non si litiga un po' non si tira notte, non si tira il giorno dopo, quindi dobbiamo farlo anche adesso. Beh, poi le discussioni molte volte sono anche costruttive. Questa è costruttiva, è il termine esatto. Esatto. È un anche autocostruttive. Ecco, quello che avete sentito è Cesare Castelli, presidente di Milano Makers. Allora, Makers, adesso spieghiamo che cos'è. Certo. Dall'altra parte abbiamo in linea Chiara. Abbiamo Nicola Brambilla, buonasera. Sì, ciao. Nicola, ciao. Buonasera a tutti. E Daniele Usuelli. Ciao, buonasera. Ecco, loro in via Savona a Milano hanno un negozio che si chiama Mio Cugino. È vero? Sì. Beh, più che un negozio è un'officina. Un'officina. No? Dove si lavora alle stampanti in 3D. Allora, adesso cerchiamo prima di dare il contorno, perché sennò qui il succo, certo, della lite non si capisce. Stampanti 3D, proiettiamoci nel 2030, avete bisogno di una spina elettrica, non andate dall'elettricista, avete in casa una stampantina 3D che ve la fa, oppure molto più in grande, e beh, un che ha progettato una bicicletta a Parigi, invece che la fabbrica mandare in giro le biciclette fatte, manda un file a Sao Paulo in Brasile, e lì hanno una stampantona 3D che fa la bicicletta. Quindi, oppure molto più in grande, ne abbiamo parlato a Mebius un mesetto fa, si possono costruire moduli abitativi da portare anche sulla Luna. Okay, non so se infatti ti ricordi. Questo è lo stampantismo 3D. Quindi non oso pensare alla stampante 3D per fare il missile per andare sulla Luna. Cosa, ecco, deve essere? Certo, a un certo punto la stampante diventa talmente grande. Ecco. Adesso invece definiamo Makers. Castelli. Dunque, Makers, allora, oggi come oggi, diciamo, ha questa grande valenza tecnologica, soprattutto qui in Italia, legata appunto al mondo 3D e al mondo, diciamo, di Arduino, di queste, io le chiamo volgarmente piastre elettroniche, ma insomma sono dei mondi molto complessi. E in realtà il Makers è un artigiano, cioè questa è la definizione corretta, diciamo. Noi come associazione Milano Makers ci occupiamo del mondo autoproduttivo, che quindi è il mondo della creatività autoprodotta, che è in tante forme, tra cui questa, diciamo, delle stampanti 3D, questa che si sta sviluppando in maniera molto forte, molto forte, molto rapida, secondo me con un'accezione soprattutto qui in Italia veramente quasi da una specie di setta, diciamo. Qui stiamo entrando, aspetta, vai sui Makers. Comunque voi Makers costruite, diciamo, al bisogno tutto quello che vi serve. Ma diciamo che, allora, tutto quello che serve, e diciamo che è il bisogno proprio quello che spinge a essere anche un po' Makers e autoproduttori, nel senso che complice la crisi, complice per esempio nel mondo del design da cui io provengo un'autoreferenzialità spinta, si è capito e da alcuni anni, alcuni anche da parecchi anni, che la cosa ideale è autocostruirsi quello che si vuole proporre al mercato. Ci sono, diciamo, due autoproduttori tipici nel, diciamo, per meno quelli che noi abbiamo censito fino adesso. C'è quello che lo fa di necessità, quindi non ha altro sbocco se non costruire le cose con le sue mani. Tra l'altro è un mondo a prevalenza di donne, perché le donne nel mondo del design sono sempre state le più discriminate, tanto per cambiare. E poi c'è, non so, per esempio il grande architetto che lavora benissimo, fa delle cose meravigliose, però poi sente il bisogno di misurarsi con se stesso o di avere una sua, diciamo, estetica, un suo concetto di estetica non mediato dalle aziende, e quindi si autoproduce determinate cose. Questo è il... Cesene, sì. Autoproduce delle cose che poi però può mettere in vendita. Come no, certamente. Produce soprattutto di prototipi, forse? Oggetti. No, ci sono delle piccole produzioni, ci sono dei nomi illustri che hanno delle loro vere e proprie produzioni, poi dopo c'è chi le declina come edizioni, ma diciamo che l'autoproduttore può essere, rispetto all'azienda seriale, al grande vantaggio, per esempio nell'arredamento, al grande vantaggio che può fare delle cose, diciamo, su misura e che comunque non sono sul mercato. Poi grazie a questo mondo, diciamo, che si è sviluppato grazie a internet, grazie al famoso B2B, a tutte queste cose meravigliose, ai corrieri veloci soprattutto, si promuove e riesce a produrre delle piccole serie che hanno dei costi quasi uguali ai prodotti di serie, ma sono ovviamente, diciamo, particolari, quindi anche chi ha una capacità di spesa media si ritrova con un pezzo unico, con qualcosa di particolare. Ecco, però allora è chiaro che in questo tipo di attività la stampante 3D ci entra bene, perché consente certo. Ma allora, qual è il dato della polemica? Perché mi arrabbiate? No, ma allora la discussione, diciamo, una discussione che c'è è che ruota attorno a un altro tema molto importante, che è quello del Fab Lab, cioè il Fab Lab, che, diciamo, nell'accezione così più classica è nato all'MIT a Boston per sviluppare questi, diciamo, passatemi il termine, congegni elettronici molto interessanti, ha dentro di sé un concetto molto bello, che è quello della condivisione e dell'open source. Cioè, quindi, l'idea di condividere idee e risorse e di poterle mettere in rete in maniera tale che questi progetti possano arricchirsi dei contributi sempre di più. Di tanti. Ecco, qui in Italia si tende in questa fase, ma poi parliamo di cose che sono, diciamo, in essere da 2 anni, credo pochissimo. Massimo 3 anni, quindi è un mondo veramente, anche noi abbiamo 6 mesi di vita, cioè è un mondo veramente nuovo. Si tende a dare molta, diciamo, accezione su questo al discorso del Fab Lab legato appunto alle stampanti 3D. Ecco. Mentre in Europa, per esempio a Tolosa, non è così, nel senso che dove per esempio un Fab Lab molto grosso c'è dal 2008, che è stato messo in piedi dal municipio, diciamo, di Tolosa, e al suo interno ci sono senz'altro tutta la parte 3D tecnologica, Arduino, queste cose qua, ma poi c'è una galleria d'arte, ci sono gli artigiani che fanno le lavorazioni classiche, cioè si cerca di mettere insieme il meglio della creatività e, condividendo insieme spazi, tecnologie, macchine, cercare di andare poi anche sul mercato insieme e quindi avere uno sbocco. Quindi tu dici eccesso di 3D, eccesso di stampanti, e invece dovremmo mantenere un equilibrio. Sentiamo andiamo loro, invece però, dai ragazzi che utilizzano le stampanti 3D e che le difendono a spada tratta. Nicola. In realtà mio cugino è nato proprio in un laboratorio artigianale, a dire la verità, dove sono presenti molti macchinari old school, diciamo. La piana. Però qualche anno fa abbiamo iniziato a comprare delle prese a controllo numerico, abbiamo costruito una stampantina 3D Quindi sì, sicuramente è molto stimolante stare dietro a tutte queste nuove tecnologie e più importante di tutti sono le persone che gravitano intorno allo spazio, come dicevate prima. Ma quindi, Daniele, questa volta, in realtà non è che proprio litigate e discutete, siete abbastanza allineati sul fatto che insomma ci deve essere comunque un dialogo, sia chi preferisce diciamo la stampante 3D, ma anche chi utilizza gli strumenti che diceva prima Cesare. Beh sì, esatto, come diceva Cesare prima, per noi è fondamentale l'unione di queste due cose, più in generale l'unione delle nuove tecnologie digitali che si trovano appunto nei Fab Lab, ma anche, come diceva Nicola, i macchinari old school che si trovano in un laboratorio di prototipazione, un'officina come è quella che ci ospita, insomma. Però mi sa che Cesare invece dice che c'è un eccesso, no? Magari voi siete più moderati, ma loro sono molto bravi, sono già secondo me a un 4D ormai. Mi è capitato di andare proprio 2 settimane fa a Faenza a un convegno organizzato dall'ISIA di Makers, dove c'erano proprio delle persone molto interessanti, molto capaci sicuramente, che però proprio profetizzavano questo mondo legato solo alla stampante 3D, per cui tutta la nostra vita cambierà completamente, come dicevamo prima scherzando un pochettino, qualsiasi cosa, anche venire in trasmissione, prima si fa il microfono con la stampante e poi si fa la trasmissione. Ah, okay. Quindi ecco, c'è un po' un eccesso in questo senso, non in tutti chiaramente, ma in alcune persone. Io credo che sia collegato anche al momento particolare che viviamo, questo è anche, va detto. Cioè, secondo me questa grande idea molto bella che poi, se non sbaglio, cioè nasce negli Stati Uniti come Fab Lab, ma come stampanti 3D, le autoreplicanti nascono, se non sbaglio, in Inghilterra, con questa idea affascinante della macchina che si autoproduce, riprende un po' la fascinazione settecentesca dell'automa, cioè quello di avere il grande tema dell'uomo e la macchina, sì, sostanzialmente, sì, sì. Ecco, rapportato ai giorni d'oggi chiaramente. E quindi ci sono queste persone che si alzano entusiaste, dicono finirà tutto, una addirittura profetizzava sbagliando completamente che sarebbero finiti anche il mondo dei trasporti, perché dice a questo punto non ho bisogno del mondo dei trasporti. Perché? Perché secondo lui ti fai tutto in casa e si era dimenticato che qualcuno ti deve portare anche la materia prima, se non altro, in casa, no? Cioè, se non voglio dire. Non esco quindi, più dai, perché mi stanco, esatto, tutto. Per cui un altro diceva ma alla fine saremo pieni di pezzi di plastica, e un altro dice non c'è problema, compri una macchina che trita la plastica in eccesso e riproduci tutto. La miseria. Quindi, allora Cesare, come possiamo fare per trovare un punto d'incontro? Ma il punto d'incontro secondo me è quello proprio di incontrarsi, nel senso che ieri sera sono andato a questa esperienza molto bella di dove c'è questo spazio di co-working, dove c'erano questi ragazzi che presentavano le loro, diciamo, innovazioni del mese, e questo devo dire che è molto bello perché comunque genera un dibattito e attraverso questo dibattito ci dà la giusta collocazione. Voglio ricordare che le macchine per i prototipi e la prototipizzazione esistono già da almeno 20 anni, voglio dire, ecco, quindi poi costavano delle cifre stellari. Adesso invece, grazie anche a questi ragazzi che si danno un grande affare per autoprodursele, ha dei costi interessantissimi. Bisogna capire se c'è un utilizzo pratico vero. Ma allora i nostri, Nicola, Daniele, voi siete abbastanza moderati, non siete eccessivi? Sì, dai, ci mettiamo in centro. Vi mettete in centro? Credete un po' di più al fatto che le stampanti 3D possano essere decisamente rivoluzionarie, però non fino al punto che ci costruiamo gli amici, insomma. Come diceva Cesare, è vero, adesso è quasi un'autoesaltazione, queste stampanti che producono se stesse è quasi un paradosso, perché la cosa che fanno meglio è stampare se stesse per fare altre stampanti, però sì, a un certo punto essere, dice, vabbè, ma adesso... Però di fatto a me è capitato di vederle e in effetti c'erano alcuni pezzi fatti dalla stampante stessa, certo, nella stampante, quindi proprio... Sì, sì. La logica iniziale è stata questa. Diventeremo una stampante a questo punto, diventerà sì, una specie vivente. Mondo, oppure forse riusciremo a controllarle e a sfruttarle nella maniera più costruttiva possibile. Diciamo che siamo in una fase del famoso gatto che si mangia la coda, esatto, che la coda, sì, ecco, c'è sì, un po' questo rischio, esatto. C'è questo rischio. Poi in mezzo ci sono tante cose importanti invece, per carità. Per chi è nell'area di Milano, il 28 ci sarà qualcosa di molto più lungo di questo. Noi adesso qui abbiamo fatto una decina di minuti. Andate al nostro sito e lì troverete www.moebiusonline.eu e lì troverete le indicazioni per questo dibattito dal vivo che ci sarà. Noi cercheremo anche di fare uno streaming, ma insomma lì vedrete tutte le indicazioni. Metteremo magari anche i contatti di Cesare, se qualcuno che non ci ascolta da Milano fosse interessato a partecipare all'associazione. Ci dovrebbe essere anche Nathalie Bruyère, che è proprio dell'Artilec di Tolosa, per cui ci porterà un punto di vista operativo già da diversi anni e ci racconterà delle cose, come esiste anche la disillusione da stampante 3D. Ah, quindi Nathalie non è una stampante. No, lei è una delle primissime che l'ha utilizzato lei è in carne ed ossa, assolutamente. Un ottimo italiano, tra l'altro, e legato al mondo del design, però con i fratelli, ognuno con una specializzazione diversa, lavorano in questo mondo da diversi anni. E giustamente lei mi diceva: guarda, la vera rivoluzione è stato il file vettoriale, cioè il fatto che tu prendi un bel ti fai il tuo progettino e spedisci in tutto il mondo la tua richiesta a un artigiano che ti produce esattamente quello che ti serve, e con i famosi corrieri te lo rimandi indietro magari in 24 ore. È una definizione un po' complessa, ma diciamo il file vettoriale è qualcosa che dà istruzione alla macchina per fare le cose, quindi è lì la rivoluzione. Va bene, grazie a tutti voi. Grazie Cesare, grazie Nicola e grazie Daniele. In bocca al lupo. Allora, ci vediamo il 28. Volete scriverci? moebius@radio24.it. Fatelo e seguiteci anche su Twitter, moebius_online. E poi Facebook. E poi Facebook, certo, Moebius Scienza. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti e tutte. Ciao.